Passate follia, passati la cambia e via. Festa sborda regional, posati alla mente blank. Torna a bere in el tempo, ricorda l'Europa e l'Est. L'ipnotizzat pel paesaggio, no vols que mai acabi el viatge. Per la finestra.